Buonasera e benvenuti. Io sono Daniela Benevelli, mi presento brevemente, sono responsabile editoriale dell'editrice La Casa della Bibbia di Torino. Questa sera ho il compito di incuriosirvi un pochettino su quelli che saranno gli argomenti trattati dagli oratori che vedete seduti qui accanto a me. Questa sera siamo qui per raccontare, per celebrare un uomo, un libro, un'invenzione e una rivoluzione. Un uomo eccezionale, non troppo simpatico, tutto sommato, e al quale non possiamo neppure fare gli auguri di buon compleanno perché la sua data di nascita è incerta. Un libro del quale non conosciamo l'esatta data di redazione perché è stato scritto nell'arco di centinaia di anni e che non ha neanche un titolo effettivamente, è meglio conosciuto come Il Libro, tanto è famoso. Un'invenzione particolare che era già stata inventata e di questo ci parlerà meglio il dottor Farina, anzi colgo l'occasione per introdurvi nuovamente gli oratori di questa sera. Qui alla mia destra c'è il professor Luigi Berzano, professore ordinario dell'Università degli Studi di Torino e direttore dell'Osservatorio sul Pluralismo Religioso di Torino. Alla mia sinistra il dottor Giancarlo Farina, è direttore della Casa della Bibbia di Torino. E ancora Adino Genta, che è responsabile della comunità cristiana evangelica di Via Parini, qui ad Asti. Che cosa manca ancora? Un uomo, un libro, un'invenzione, una rivoluzione. Una rivoluzione che ha segnato profondamente la storia, partita tutto sommato da un'elite, ma che ha saputo muovere le masse e che ancora oggi è in grado di rivoluzionare la vita di ogni uomo. Lascio allora la parola al nostro primo oratore, il dottor Giancarlo Farina. Buonasera. Buonasera. Vi assicuro che saremo molto noiosi questa sera, ma è che dovrete subire queste tre persone per poter finalmente vedere come si stampava nel 1500. Però vogliamo anche ricordarci l'anniversario oggi, un anniversario importante, il 22 febbraio. Non è la nascita di Vittorio Alfieri, mi direte, senz'altro, e neppure di Gianduia, ma è la nascita di qualcosa di ben importante, il 22 febbraio 1455. Un anniversario importante per la storia della letteratura, perché in quella data esce un nuovo libro. L'autore di questo libro non è un esordiente, è un essere con tanta esperienza. E questo libro non è altro che una vecchia edizione di un vecchio classico, molto vecchio. Così famoso, che come abbiamo sentito dire, non aveva neanche un titolo, questo libro, perché tutti lo chiamavano semplicemente Il Libro. Non è uscito neanche l'edizione critica, l'edizione riveduta, oppure corretta, ampliata, come di solito si fa quando si pubblica un classico. No, il testo era proprio quello, semplice e crudo com'era. Eppure era una grande novità, un'estrema novità. Era stato pubblicato, era stato prodotto in un modo completamente nuovo, con una tecnologia avanzata, innovativa, che fu la più grande rivoluzione non soltanto editoriale, ma anche culturale. Perché ogni volta noi abbiamo una rivoluzione editoriale nello scritto, c'è anche una grande rivoluzione culturale. Questo libro è stato il primo libro, anche se non è preciso dire questo, perché qualche esperimento l'autore l'aveva fatto prima, questo libro fu il più grande libro, il primo libro stampato a caratteri mobili. Il libro era la Bibbia, lo avete capito, lo sapete, nulla di nuovo. E questo libro è stato stampato con un procedimento che a quei tempi, oggi ci può sembrare così banale, così semplice, per allora fu veramente innovativo, lo vedremo perché. Gutenberg ha portato alla stampa usando dei caratteri, che erano caratteri mobili messi uno accanto all'altro per formare le pagine e riprodurre velocemente, vedremo poi con quale velocità venivano stampati i libri a quel tempo, ma era qualcosa che è stata una reale e profonda rivoluzione. Una rivoluzione che è durata ancora oggi, perché sapete, il metodo e il sistema di Gutenberg è ancora quello che si adopera oggi per la grande stampa offset. Per fare una pagina, Gutenberg doveva prendere i vari caratteri, le A, le B, le Z, le C, le G, e metterle assieme una dopo l'altra e comporre la pagina, una specie di gabbia. Ma non facciamo questo anche noi oggi? Quando noi usiamo il computer, cosa facciamo? Prendiamo i vari caratteri, li schiacciamo sopra un tasto, facciamo la stessa cosa che ha fatto Gutenberg, che faceva i tipografi del 1500. Prendiamo i vari caratteri, li mettiamo insieme in una gabbia, in un foglio di stile Word, e poi lo stampiamo. E anche il procedimento di stampa usato a quei tempi è lo stesso che viene usato oggi anche dalle grandi rotative, anche dalla stampa offset più moderna. Quest'uomo di 50 anni, di professione era un orafo, coniava monete d'oro, viveva, era nato a Bagonza, era un aristocratico, portò in Occidente una tecnica che esisteva già in Oriente. Noi diciamo che Gutenberg ha inventato la stampa a caratteri mobili. Non è vero, purtroppo. Mi spiace sfatare questo mito. La stampa a caratteri mobili fu inventata da Bisheng nel 999, quindi nell'anno 1000. E quei caratteri mobili prima erano particolari. Erano dei caratteri mobili in terracotta, erano delle placchette in terracotta contenente tutti gli ideogrammi della lingua cinese. Chi conosce la lingua cinese, che allora era ancora in edizione semplificata, era un lavoro enorme. Prima erano in terracotta, la terracotta però si consumava velocemente. E allora incominciarono a farla in legno. E poi in Corea, nel 1490, età contemporanea a Gutenberg, si fecero tramite Yuan Seu, si fecero i caratteri di piombo, i caratteri metallici. Fu questa una enorme rivoluzione. La prima grande rivoluzione nella stampa e nella riproduzione di libri fu senz'altro la scoperta del papiro. Papiro, questa pianta prodotta dagli Egizi, poi dai Fenici, dai Greci, era diffusa in tutto il mondo civile di quei tempi, civilizzato quei tempi, tanto è vero che Biblo era, da cui deriva la Bibbia, era il porto nella Fenicia dove partivano le pergamene, dove partiva il papiro. La grande rivoluzione è stata passare dai rotoli di papiro alle pergamene. Le pergamene, la carta pecora, erano praticamente dei fogli ricavati dalle pelli degli animali. Venivano tirate, lisciate, tutto un procedimento molto molto lungo per poter fare un foglio di pergamena, e alla fine venivano usati per lo scrivere. I libri non erano più quindi dei rotoli, ma erano dei codici, un po' come li usiamo noi adesso, foglio dopo foglio. Senz'altro erano molto costosi. La pergamena aveva un grandissimo valore, una facilità di uso, si poteva scrivere da una parte e dall'altra, anche se qualche volta questo veniva fatto con il papiro, ma raramente, ed era molto costosa. Ma i primi cristiani preferivano usare le pergamene per un semplice motivo tra le varie cose, non solo per la praticità, ma per distinguere i loro libri, il libro, la Bibbia, dal resto della letteratura pagana di quei tempi. Ma c'era un grande problema sia col papiro sia con la pergamena, e che erano dei beni di lusso. Qualcuno dirà oggi, ma anche oggi comprare un libro, insomma, costa. Ma quando pensiamo a cosa poteva costare a quel tempo un libro, era una follia, nessuno poteva permetterselo. E allora, a cosa serve imparare a leggere se poi non posso acquistare un libro per leggerlo? Perché oggi, dovunque noi ci muoviamo, troviamo qualcosa di scritto, semplicemente camminando nelle strade. Non c'è soltanto il libro, ci sono le insegne, gli avvisi. Allora tutto questo non c'era. Per leggere bisognava leggere un libro. Si stampava allora in stilografia, si stampavano i santini, le immaginette, le figure, dove c'era qualche parola in latino che qualcuno poi spiegava cosa questo volesse dire. Oggi ci sono scritte dappertutto, nel passato no. E allora come si comunicava a quei tempi? Come veniva comunicata la Bibbia a quei tempi? Attraverso i mosaici, queste belle cattedrali con tutti questi mosaici, non servivano soltanto per abbellire la Chiesa, ma per poter in maniera pedagogica insegnare gli avvenimenti della Bibbia, gli avvenimenti della fede, i racconti. Allora la stampa è stata veramente una grande rivoluzione culturale, oltre che tecnologica. E Gutenberg questo lo sa molto bene. E cosa pubblica come suo primo grande elemento di stampa? La Bibbia. Perché la Bibbia a quei tempi, nel tardo Medioevo, aveva un'importanza molto grande. Un'importanza che non veniva data al libro stampato, perché la gente non era avvezza a leggere, non poteva leggere, non sapeva leggere, ma soprattutto perché poteva imparare a leggere. Si può imparare a leggere anche senza andare a scuola. Io ho imparato a leggere all'età di 4 anni, 2 anni prima di andare a scuola, me lo insegnò mia madre. Ma nel Medioevo la Bibbia era un vero universo e tutta la cultura del Medioevo era impregnata della Bibbia. D'accordo la liturgia, d'accordo la teologia, ma la filosofia, la letteratura, la storia, l'arte. Pensiamo alle pareti e alla volta della Cappella Sistina. C'è tutto il racconto, la storia biblica contenuta nell'arte. Le icone della Bibbia, le immagini, i personaggi vivono nel pensiero del popolo. E poi venivano comunque questi racconti che passavano da voce a voce, arricchiti, no? Come si usa a fare quando uno racconta una storia, no? Ognuno le vuole arricchire di un pezzo, oppure ne dimentica un altro. Ma mancava il testo, e mancava il contesto, mancava la dinamica di comprendere questa fede, che era basata soltanto a una serie di racconti. Mancava la possibilità di comprendere il senso letterale della Bibbia, il senso morale, il senso allegorico, il senso analogico. E tutto questo è riservato a pochi. E allora Gutenberg vuole portare all'umanità intera questo meraviglioso libro. Quello che non sa quando inizia quest'opera è che sarebbe morto povero come Antonio Meucci, oppure recentemente come i fratelli McDonald, gli hanno rubato tutto. I rivali diventano ricchi e infatti il suo finanziatore, Johann Fust, prima gli prestò 800 fiorini, poi altri 800, e quando vide che la cosa funzionava, ha voluto indietro i suoi soldi, con gli interessi. Gutenberg non poteva assolutamente restituire questo, lo portò in processo e quindi gli sequestrò la tipografia. Tiro Birbone. Ma ritorniamo a Gutenberg. Come facevano, o come è stata l'intuizione di Gutenberg nel portare la stampa a caratteri mobili? Potrebbe sembrare abbastanza semplice. All'inizio, appunto, non c'era la stampa, i libri venivano scritti da amanuensi a mano e si stampava soltanto usando tavolette di legno o o di gesso, soprattutto di legno, dove si gravavano disegni, parole, figure, per stampare e produrre delle figurine, delle immagini, dei piccoli ritratti, cose molto semplici. Ma tutto quello che era libro continuava a essere qualcosa di fatto puramente a mano, e questo fino al Medioevo. Anzi, il Medioevo è stato un momento importante perché gli amanuensi hanno riportato tutta la cultura e il sapere a noi attraverso una grande, profonda fatica, quella di copiare a mano i testi. C'erano delle sale come questa, c'era una dozzina di amanuensi e qualcuno al mio posto che dettava il testo e quelli scrivevano. 3 anni per scrivere la Bibbia, 12 copie in 3 anni, per esempio. Veramente molto poco. Quindi questi caratteri mobili venivano inchiostrati, lo vedremo il funzionamento dopo, venivano pigiati, siamo asti qui. Ma infatti il torchio di Gutenberg è nient'altro che l'intuizione di una macchina per pigiare il vino, non cambia molto, quello era il... solo che al posto di pigiare il vino si pigiava un foglio sull'inchiostro. E quindi Gutenberg, dopo aver fatto delle piccole opere per assemblare un po' il suo lavoro, inizia a stampare la Bibbia. In quanto tempo Gutenberg ha stampato la Bibbia? Ha stampato 180 copie della famosa Bibbia 42 righe in 3 anni. In 3 anni. Cioè in 3 anni 180 copie. Perché era complesso. Doveva comporre la pagina con i caratteri mobili, ci volevano delle ore per mettere assieme tutti i caratteri, fare le prove, cambiare, ingabbiare e poi stampare a una le 180 copie, metterle, appenderle, farle asciugare. Nel frattempo si ricomponeva tutta la pagina e poi si ristampavano le altre pagine e quindi 180 copie in 3 anni. Però era già 180, per un amanuense ci metteva 3 anni a farne una, quindi pensate alla produzione come si è in questo caso evoluta. Io qui davanti agli occhi questa copia della Bibbia, è una nostra edizione, questa edizione è la 1000esima copia di questa edizione venduta in 7 anni. Questa Bibbia noi la stampiamo nelle tipografie che noi usiamo, 100.000 copie in 3 giorni. 100.000 copie in 3 giorni. Questa è un'edizione particolare, se mi permettete ve la illustro brevemente. È una Bibbia low cost, una Bibbia a basso costo, una Bibbia su carta riciclata, che vendiamo a 1,90 euro, perché vogliamo appunto fare la più grande diffusione della Bibbia che il corso della storia abbia mai conosciuto. Siamo arrivati a 4 milioni di copie tra il francese, tedesco, spagnolo e italiano. Italiano 1 milione di copie. E per una quindicina di giorni partiranno in 1000 punti vendita nei supermercati, ipermercati, questa Bibbia che forse avete anche già trovato nel colore rosso, questo colore bronzo per l'anniversario del milione di copie. Stampò 40 copie in pergamena e 140 copie in carta di canapa. E dove comprava Gutenberg? Ha comprato Gutenberg la carta? In Italia. E Caselle Torinese, la città dove io abito, si fregia di dire Gutenberg ha comprato la carta nelle nostre cartiere, e quindi ogni tanto c'è un piccolo torchio che viene allestito anche nella mia piccola cittadina per ricordare appunto alla popolazione questo avvenimento importante. Come vendeva Gutenberg i suoi libri? Non li vendeva rilegati e neanche illustrati, vendeva soltanto i fogli stampati. E poi chi comprava questa Bibbia doveva far miniare, disegnare, abbellire pagina dopo pagina secondo i mezzi che aveva, secondo il suo gusto, secondo i mezzi finanziari che aveva, miniature in oro, miniature in cobalto, con altri inchiostri, altri colori, e poi doveva rilegarla nelle varie legature che poteva fare. Insomma, diciamo un po' che la Bibbia di Gutenberg era un po' la Bibbia Ikea, che uno doveva montarsi a casa, no? personalmente. Era una Bibbia fai da te. Perché 180 copie? Perché non ne ha fatte 300? Perché non ne ha fatte di più? Perché ne ha fatte 40 in pergamena e 140 su carta? Perché ha avuto lui una grande... Cioè lui prima di stampare queste Bibbie voleva venderle e quindi erano sottoscritte, le aveva vendute prima di poterle stampare. E quando il suo collega e finanziatore si è fatto i conti di quanto questo sarebbe risultato, il ritorno delle casse, verso la fine della stampa della Bibbia gli ha fatto lo scherzetto. Storia veramente meschina. Fust recupera la tipografia, prende il suo mastro tipografo, Schaeffer, gli fa sposare la figlia, così tutto in famiglia, e aprono la nuova società. Ma dopo 50 anni da questo avvenimento, c'erano già 30.000 titoli stampati, 12 milioni di copie, qualcosa di fenomenale. Qualcosa di immenso, che per noi può essere così semplice. Andate in libreria, escono 30-40 titoli all'anno soltanto in lingua italiana. A quei tempi era qualcosa di sconvolgente. La cultura ha avuto un'esplosione, è stata una rivoluzione, perché le rivoluzioni partono quasi sempre dall'aristocrazia, dal mondo intellettuale, per raggiungere il popolo. E veramente il libro e la cultura raggiunse il popolo. Iniziarono i borghesi a studiare e anche le persone con meno possibilità avevano la possibilità di studiare o di andare in gruppi dove una persona conosceva e poteva leggere agli altri quello che c'era. Qualcosa di fenomenale. Gutenberg muore dimenticato nel 1462, ma nessuno può dimenticare oggi la sua opera, il suo ingegno. Da quell'anno in poi tutto sarà diverso. E alla base di questo libro, perché stiamo parlando e stiamo inserendo, ho inserito questa serie di conferenze nell'ambito della Riforma protestante, alla base di questo libro troviamo la Riforma. Se non ci fosse stato la Bibbia stampata, i libri stampati in così larga misura, la Riforma non avrebbe avuto luogo, almeno non in quel periodo e non con quella valenza e con quella forza. Lutero tradusse la Bibbia nel linguaggio del popolo. Già Girolamo, quando tradusse la Bibbia in latino, era la lingua volgare, la vulgata, era la scritta con un linguaggio che poteva essere compreso dal popolo. E Lutero veramente ha voluto portare, diede ai tedeschi quello che ha fatto Dante per noi italiani. Ha dato una lingua. La lingua germanica erano vari dialetti, come vari dialetti erano i dialetti italiani. Lui ne scelse uno, quello di Norimberga, e quindi tradusse la Bibbia in quel dialetto che diventò poi la lingua germanica, diventò poi il tedesco. E lo fece in un linguaggio che il popolo poteva comprendere, per esempio... Epistola ai Romani 8:18, lui dice: l'uomo è giustificato solamente per la fede. E gli fece notare Lutero: ma guarda che questo solamente, questo avverbio rafforzativo non c'è nei testi originali. Dice: non ha importanza, questo è il concetto base e devo far capire benissimo al popolo questo concetto, che la fede è l'unico mezzo per giustificare l'uomo e che l'uomo è giustificato solamente per mezzo della fede. E fece quindi e iniziò quindi un concetto di traduzione dinamica della Bibbia. Negli ultimi 50 anni questo libro è stato stampato in 4 miliardi di copie in tutto il mondo, 3,9 miliardi di copie. L'eccezione di Mao in 800 milioni di copie, Il Signore degli Anelli in 103 milioni di copie, Il Diario di Anna Frank 27 milioni, Via col Vento 3 milioni e mezzo. Ma la Bibbia 3,9 miliardi di copie. E quindi penso che oggi Gutenberg, se potrebbe ritornare in vita in mezzo a noi, rimarrebbe profondamente stupito di vedere questo. E penso che forse qualche lacrima gli sarebbe uscita dagli occhi, sarebbe profondamente commosso. Commosso poter entrare in questa meravigliosa biblioteca, e come un bambino avrebbe sgranato gli occhi e avrebbe detto: non è possibile, tutto questo è nato a Magonza, schiacciando un torchio, ubbidendo la carta, con un pennello di crine passato sui caratteri di inchiostro. Ma sì, che mi importa che Fust mi ha fregato la mia tipografia. Quello che è importante è che l'umanità possa avere i libri, la cultura e soprattutto il libro. Bene, ringraziamo il dottor Farina per questo bellissimo intervento e gli siamo grati di averci illustrato questa invenzione e la rivoluzione che ha portato con sé. Siamo grati a Gutenberg per aver reso finalmente il libro accessibile ai più, il suo contenuto, il suo universo e soprattutto il suo protagonista, per averlo fatto sentire più vicino. Lascio adesso la parola al professor Berzano, che ci illustrerà alcune innovazioni che sono state essenziali per la storia dell'uomo e per la realtà che viviamo oggi. Prego. La parola rivoluzione l'abbiamo sentita evocare già dalla Daniele Benevelli, da Farina, e io quindi dirò perché si parla di rivoluzione in riferimento alla stampa, ma in riferimento però ad altre due rivoluzioni che gli studiosi della comunicazione comunemente dicono che nel sistema della comunicazione sono avvenute tre grandi rivoluzioni. La prima rivoluzione è stata la invenzione dell'alfabeto, la seconda quella della stampa e la terza quella dei media elettronici. Io vi dirò alcuni effetti che, quando c'è una rivoluzione, quali sono gli effetti sulla cultura, sull'economia, sui modi di vita. Allora, la prima rivoluzione è stata l'invenzione dell'alfabeto. Prima che ci fosse l'alfabeto, si stima circa 3.000 anni fa, c'erano prima già dei sistemi fonetici, però non erano così razionali come questo dell'alfabeto, perché l'alfabeto lo impara un bambino di 3 anni, cioè 26 caratteri. Se noi pensiamo ai sistemi fonetici della Cina, ancora oggi la Cina ha 50.000 segni, quindi si dice che per imparare il cinese usando, non l'alfabeto, ma usando il sistema fonetico, ci vogliono circa 20-25 anni. Allora, l'invenzione dell'alfabeto, cioè scrivere le parole con 26-30 caratteri, ha rappresentato esattamente una grande rivoluzione. Perché prima che cosa c'era? E prima dell'invenzione dell'alfabeto, della scrittura, c'erano semplicemente le trasmissioni orali, cioè le cose si tramandavano raccontandosele. L'invenzione dell'alfabeto ha prodotto straordinarie conseguenze. E gli studiosi dicono che si è passati dal mito alla storia, perché i miti venivano raccontati. La storia, quando la si scrive, rimane fissa. Questa cosa vale anche per la Bibbia, perché si pensa, gli esegeti dicono che la stesura della Bibbia non è oltre 1000 anni avanti Cristo. Prima la Bibbia veniva raccontata, e veniva raccontata con tradizioni diverse. Quando si scrive, quando un mito lo si scrive, rimane fisso. E rimane fisso perché non si può più discuterlo, no? E quindi gli antropologi, per esempio, ci dicono, leggevo recentemente una ricerca sulla su una popolazione del Ghana, la quale aveva tante divinità quanti erano i figli del principe e del principe. Quindi inizialmente questo principe aveva 7 figli e quasi a legittimarli si pensava che nel regno delle divinità ci fossero 3 divinità, ognuna per ogni figlio. Questa ricerca documenta che quando invece venne che la famiglia aveva solo più 5 figli, anche le divinità divennero solo più 5. Tutto questo lo si poteva fare, perché il racconto era orale. Ma quando invece per la prima volta si mise per iscritto la storia di queste divinità del Ghana, sono rimaste fisse, poi non si poteva più cambiare. Allora vedete che l'invenzione dell'alfabeto ha prodotto esattamente queste grandi trasformazioni. Le trasformazioni cioè di dovere una volta raccontando una cosa e questa rimane fissa. Quindi la prima grande rivoluzione è questa dell'alfabetizzazione. Ma indubbiamente la seconda grande rivoluzione è stata quella che diceva il dottor Farina, perché anche in questo caso, inventando la stampa, i caratteri mobili, e che cosa si è prodotto? Si è prodotto intanto una moltiplicazione dei libri, dei testi, si è prodotto quindi una democratizzazione della lettura, perché anticamente per leggere un libro dovevi avere qualcuno che te lo copiasse, invece la stampa ha prodotto esattamente questa grande democratizzazione della scrittura. E per quanto riguarda la logica di questo mese culturale astigiano su questi temi, allora noi potremmo dire che con l'invenzione della stampa nasce l'homo legens, cioè l'individuo che legge. Insisto su questa cosa dell'homo legens perché alla fine dirò che oggi noi invece stiamo assistendo a un'altra, la terza rivoluzione, che è quella dell'homo videns. Allora, l'homo legens ha prodotto, diceva, l'homo legens è la possibilità di leggere tutti facilmente, ha prodotto l'individualizzazione della lettura, ognuno poteva leggere per suo conto, ha prodotto ha prodotto per esempio il sorgere delle nazioni. E i politologi dicono che il concetto di Stato-nazione è nato esattamente quando è nato una lingua ufficiale. Prima il dottor Farina ci diceva che stampando la Bibbia nel dialetto di Norimberga è nato il concetto di Stato della Germania. La stessa cosa vale anche per l'Italia. Cioè la nazione Stato italiana nasce quando nasce l'italiano, o meglio, è un reciproco influsso. Quindi la lingua crea un'identità nazionale, l'identità nazionale ha bisogno della lingua. Allora, vedete che se noi analizziamo queste rivoluzioni nella comunicazione, per percepirne gli effetti ne troviamo esattamente numerosi e rilevanti. Quindi la seconda rivoluzione della comunicazione è l'invenzione della stampa. Non apriamo un'altra questione così affascinante per gli storici delle religioni nel rapporto tra l'invenzione della stampa e il sorgere del protestantesimo. Perché spesse volte lo dicono però gli studiosi dall'esterno, il protestantesimo è nato quando c'è stata la stampa. E la stampa non poteva avere che un tipo di cultura religiosa, di religiosità come quella del protestantesimo. Ma perché? E perché il protestantesimo ha esattamente uno dei principi fondamentali, cioè il singolo credente che legge la Bibbia, no? Che si mette di fronte al suo Dio. Quindi il protestantesimo sarebbe stato possibile senza la stampa? Queste sono domande che ci facciamo, però indubbiamente questo legame è un legame strettissimo. Ma vengo alla terza rivoluzione nella comunicazione, che è quella dei media elettronici. Quindi qui i manuali della comunicazione dicono esattamente che quando nascono i media elettronici, cioè tutte le cose che noi abbiamo tra le mani, beh, però compreso ovviamente anche prima il telefono, la televisione, ma poi soprattutto i mezzi tutti i palmari che ci riempiono ormai la nostra vita. Allora, ma in che senso questa terza rivoluzione, questo dell'invenzione dei media, ha tutti gli effetti che hanno le rivoluzioni? Allora, proviamo a dire gli effetti parallelamente a quello che abbiamo detto prima. La stampa produce l'homo legens. I media elettronici si dice che producono l'homo videns. Quando si dice legens e videns si intende proprio questo. Perché quando noi apriamo un testo, noi lo leggiamo, e leggere un testo vuol dire riga per riga seguire. L'operazione che fa il cervello quando noi leggiamo attiva delle funzioni cerebrali che si dice che sono quelle della intelligenza sequenziale, cioè vale a dire noi leggiamo una riga per volta, eccetera eccetera. Quando noi apriamo il cellulare, e noi non leggiamo il cellulare, noi quando noi apriamo il cellulare lo guardiamo, e anche poi quando vediamo i molteplici ipertesti che ci sono, l'operazione che fa il cervello nostro non è quello di tipico della lettura. Noi la prima cosa che facciamo lo guardiamo. L'homo videns è l'uomo che sta privilegiando sempre di più questa funzione cerebrale del vedere. Quindi l'homo videns è quello che guarda queste splendide tele che sono state recentemente anche riproposte. E quando noi guardiamo un quadro, noi guardiamo, è un'attività olistica, guardiamo l'insieme. Poi ci soffermiamo su un bambino, sul volto, però la visione è questa. E si dice che comunemente oggi i ragazzi fino a 9-10 anni, il 90% delle cose che conoscono, li conoscono perché le hanno viste, che vuol dire quindi che si legge sempre di meno. Quindi i ragazzi attivano delle funzioni cerebrali che sono quelle di vedere una cosa tutti insieme. Abbiamo la riprova anche all'università, quando gli studenti che devono fare la tesi di laurea e le prime volte che vengono a proporre un progetto, anziché avere come una volta delle pagine fitte con 32 righe, vengono presentando un logo, un titolo, un'immagine, un diagramma, eccetera, eccetera, che sono tutti elementi tipici dell'homo videns. Quindi la rivoluzione che sta producendo oggi questo vero e proprio imperialismo dei media elettronici è esattamente questa. Si produce esattamente l'homo videns, l'individuo che le cose le vuol conoscere vedendole tutte insieme, e vedendole in modo non con i 26 caratteri, ma vedendole con dei disegni, con dei grafici, con dei grafi, con delle tabelle e così via. Allora, questo è il primo dato, quindi noi possiamo ben dire che questa è che l'invenzione dei media elettronici è una rivoluzione, perché produce esattamente questo nuovo individuo che è l'homo videns. Ovviamente però ci sono altri effetti che l'invenzione dei media produce, per esempio questo questo di abolire totalmente gli spazi e i tempi. Cioè noi attraverso i mezzi elettronici noi ci colleghiamo con gli individui che sono all'estremo opposto del mondo, con l'Australia, a volte con più facilità che con quelli che abbiamo vicini. Quindi l'effetto dei media elettronici scompone esattamente le comunità relazionali. Nel tempo delle culture orali le comunità erano quelle che gli individui si vedevano l'un con l'altro, e quindi tu ti mettevi in relazione con gli altri perché li guardavi in faccia, no? Oppure parlavi. Nel tempo della stampa questo si è un po' ridotto, ma invece oggi con la presenza dei media, noi le comunità relazionali le chat. Noi le facciamo indipendentemente dallo spazio, indipendentemente dalla conoscenza diretta, indipendentemente anche dalle differenze sociali, culturali. E d'altra parte chat vuol dire esattamente, vuol dire chattare vuol dire parlare. Allora noi questo possiamo farlo con quelli che sono in Africa, con quelli che sono al Polo Nord, a volte con più facilità che con quelli del nostro quartiere. Quindi questa abolizione delle frontiere, degli spazi, è esattamente uno degli effetti della comunicazione dei media. L'altro effetto macroscopico è questo della democratizzazione della cultura. Cioè, un tempo erano quelli che sapevano leggere, scrivere, che potevano imporsi. Adesso è sufficiente che un individuo, lo vediamo nei talk show, un individuo vada in televisione e ci sono individui che non hanno né laurea né cultura né niente e che bucano lo schermo mille volte più che i premi Nobel della chimica e della fisica, perché il modo con cui ci si impone nei media non è più quello tipicamente colto, culturale, aristocratico. Ci sono delle altre risorse che sono quelle della capacità di mettersi in relazione con gli altri che producono gli effetti. E ovviamente tutto questo, se volessimo ancora fare un riferimento con quanto si diceva prima, il rapporto tra la stampa e una religione che nasce, cioè il protestantesimo. E oggi, se dovessimo dire, nell'imperialismo, nella cultura generalizzata dei media elettronici, che religione nasce? Religione eccessiva, che religiosità, che spiritualità nasce? Ora, qui guardate che ci sono degli effetti notevolissimi, perché online si trova tutto, anche per quanto riguarda il mondo della religione. Online ci sono le comunità, ci sono le chat di tipo religioso, ci sono i rituali, ci sono, insomma, c'è tutto online. Quindi chi pensa, chi scrive che oggi esiste già una spiritualità digitale, si riferisce proprio a questo. Ci sono una parte di individui che i loro interessi religiosi li soddisfano, li socializzano esattamente online, sia per l'informazione, sia per i collegamenti, sia per i focus, sia per le chat, sia ovviamente però anche per i riti. Per cui lo dicevamo la scorsa volta in questa stessa sala, che se uno adesso vuole accendere una candela in un tempio shintoista dell'Oriente lo può fare, pagando un piccolo obolo e riesce a accendere una candela in un tempio, così come ci si può confessare e così come ci sono delle chiese elettroniche che sono totalmente online. Però non possiamo, abbiamo fatto l'elogio, diciamo gli effetti positivi che queste tre rivoluzioni hanno prodotto. Possiamo fare anche però qualche elemento negativo, soprattutto in riferimento a quest'ultima rivoluzione. E gli effetti negativi, o comunque problematici, della rivoluzione dei media elettronici quali sono? Sono quelle che comunemente noi oggi ripetiamo. E oggi ci si guarda sempre di meno in faccia, perché si guarda sempre di più sul cellulare, si parla sempre di meno perché si guarda lì. E quindi questo paesaggio in cui noi entriamo dentro a un qualunque bar o ristorante e vediamo coppie che anziché parlare ognuno lavora sul suo palmare, famigliole che anziché parlare i figli sono immediatamente sul... Ecco, questi sono probabilmente gli effetti che stanno diventando un po' negativi perché elidono invece il rapporto diretto, il rapporto personale, la relazione. Quindi questo imperialismo dei media elettronici è indubbiamente oggi è ben evidente. È ben evidente tanto che le neuroscienze stanno già dimostrando alcuni di questi effetti. E quindi ci sono delle ricerche che documentano che alcune funzioni cerebrali che si attivano quando noi leggiamo un testo, si atrofizzano in coloro che invece prevalentemente vedono. Quindi il nostro cervello ha delle funzioni cerebrali che si attivano quando noi leggiamo in modo sequenziale, cioè leggiamo riga per riga, e ne nasce un'intelligenza sequenziale. Altre funzioni cerebrali si attivano quando noi vediamo, cioè quando noi vediamo per intero un quadro, le funzioni cerebrali che ci danno modo di vedere il tutto e poi magari di soffermarci su un aspetto sono diverse da quelle che si attivano quando noi invece leggiamo. E parallelamente noi potremmo dire che ci sono delle funzioni cerebrali che si attivano quando noi leggiamo, che si atrofizzano quando noi vediamo. E quindi potremmo dire che oggi, in questa prospettiva, se è una prospettiva seria, scientifica, i nostri ragazzi hanno un cervello con funzioni cerebrali molto attivate, che sono quelle dell'homo videns, e delle funzioni cerebrali molto a rischio di atrofizzazione, che sono quelle dell'homo legens. E basterebbe dire questo per capire che ogni rivoluzione tecnologica, come sono quelle delle rivoluzioni della comunicazione, ha effetti positivi e effetti negativi. Grazie. Grazie a lei, professor Berzano, grazie per questo sguardo buttato sul passato, ma anche sul presente, che forse ci inquieta un pochettino. Però colgo l'occasione di avere il professor Berzano qui vicino a me per presentarvi un oggetto che tutto sommato mette d'accordo l'Homo Legends e l'Homo Videns, che l'Homo Videns amerà questa bellissima copertina con la mola antonelliana, e l'Homo Legends sarà felice di leggere le sue quasi 300 pagine. Questo interessantissimo volume si intitola Protestantesimi a Torino, la riforma continua. Il professor Berzano è stato il promotore di questo progetto, è uno degli autori insieme a... Ci siamo conosciuti in quel contesto, ci siamo conosciuti esattamente in quel contesto, la casa della Bibbia. Esatto. È uno degli autori insieme ad Alessandro Cannariato e Mosè Di Cembrino. È un volume che documenta, proprio come lo potete intravedere dal titolo, Protestantesimi, il variegato e prolifico mondo protestante del capoluogo piemontese. Infatti sono 105 le strutture recensite tra chiese, comunità, assemblee, associazioni. È un progetto che è nato in seno all'Università di Torino ed è frutto dell'attività dell'Osservatorio sul pluralismo religioso, frutto di una ricerca che dura dal 1997. E quando il professor Berzano con gli altri suoi due collaboratori è venuto in sede da noi a Torino per proporci questo progetto e quindi la pubblicazione di questo volume, ci è sembrato veramente un ottimo modo per celebrare il quinto centenario della riforma e anche il primo centenario della nostra casa editrice, che festeggiamo proprio quest'anno, ricorrenza quest'anno. E l'analisi sociologica condotta dal dottor Berzano e dai suoi collaboratori è molto interessante, perché attesta il radicamento delle realtà protestanti nel territorio torinese e anche proprio la loro integrazione nel tessuto sociale, nei loro molteplici aspetti, da quella di centri propulsori della cultura biblica fino a delle forme di aiuto alla comunità. E come è strutturato il libro? Il libro è suddiviso in 5 sezioni principali, dove sono recensite le chiese protestanti storiche, le chiese cosiddette del risveglio, le chiese pentecostali, le chiese pentecostali dell'immigrazione e poi le associazioni evangeliche sul territorio. sotto forma di schede più o meno ampie, a seconda di quello che c'è da raccontare, di ogni comunità. Ogni scheda contiene delle informazioni molto pratiche e spicciole, quindi come i vari recapiti, l'indirizzo, i recapiti telefonici, email, sito, web, i nomi dei responsabili, ma anche informazioni storiche della comunità stessa, informazioni di carattere teologico e il loro singolo impatto sulla comunità circostante. Quindi potremmo dire che tutto sommato è una fotografia in 3D che butta una fotografia del presente, che butta lo sguardo un po' al passato e ci lascia intravedere il futuro, no? Un po' una ricognizione come quella che ha fatto il professor Bersano. E adesso io lascerei ancora la parola ad Adino, Adino Genta, che ci illustrerà proprio in maniera un pochettino più pratica quella che è stata quella che vedrete poi dopo di là, che è una riproduzione del Torchio di Gutenberg, da cui questa riforma che continua ha avuto poi inizio. Il testo è il testo della Nuova Riveduta, un testo che abbiamo prodotto, no, Nuova Riveduta è una, no, stiamo proprio così, Nuova Riveduta è un testo che proviene dalla Bibbia Diodati del 1660, se non erro, rivista già nel 1943, e noi abbiamo poi prodotto nel 1994 e 2006 un testo riveduto nella lingua italiana. È un testo di origine protestante. E allora la vostra operazione Chioschi si rivolge a tutti quanti? Certo, a tutti quanti, naturale. Il testo comunque è un libro universale, non esiste la Bibbia protestante o la Bibbia cattolica, esiste la Bibbia tradotta dai cattolici, tradotta dai protestanti, dagli ortodossi o al limite tradotta da un agnostico. La Bibbia è questo il testo, a parte alcune piccole differenze. C'è anche la Bibbia ebraica, naturalmente. Grazie. Prego, Adino. Grazie, Daniela. Allora, parlare per ultimo i suoi vantaggi. Il primo, che diverse cose magari sono state già dette, mi riferisco all'intervento dell'amico Giancarlo Farina, e l'altro è perché magari qualcuno può essere stanco, quindi puoi dire qualunque cosa che tanto nessuno ti ascolta. Vorrei iniziare questo mio brevissimo intervento con una citazione di un noto scrittore poeta francese, Victor Hugo, che è presa dal celebre romanzo Notre Dame de Paris del 1831. Diceva Victor Hugo, l'invenzione della stampa è il più grande evento della storia, è la rivoluzione madre, è il modo di esprimersi dell'umanità che si rinnova totalmente, è il pensiero umano che si spoglia di una forma e ne riveste un'altra. La citazione continua, per correttezza la cito, ma ovviamente avrei qualcosa da dire a Victor Hugo, non posso per evidenti motivi, su quest'altra parte. Dice, è il completo e definitivo cambiamento di pelle di questo serpente simbolico che da Adamo in poi rappresenta l'intelligenza. Va bene, come cristiano evangelico su questa ultima parte avrei qualcosa da contestare, ma comunque va bene così. Allora, forse alcuni dati, prima di entrare nello specifico della riproduzione che potrete ammirare in fondo nella bellissima sala della biblioteca, questa edizione del Gutenberg richiese non meno di 4-5 anni di lavoro, e nella composizione del testo furono impiegate fino a 6 persone per almeno 2 anni. L'esecuzione in stampa richiese non meno di 12 stampatori con 6 torchi a disposizione, più il personale che si occupava dell'inchiostrazione e della messa in opera dei fogli. Quindi si calcola che per stampare un'opera di 1282 pagine, quale era l'opera di Gutenberg, con tiratura di 180 esemplari, appunto, siano occorsi ben 230.670 passaggi al torchio. Interessante. E se l'esecuzione in stampa fu conclusa, come sembra, nel 1454, occorsero certamente almeno 2 anni perché ogni singola copia venisse dipinta e rilegata. Allora, in totale, nell'impresa furono impegnati, sembra, almeno una ventina di lavoranti, cui corrispondere un salario per 4-5 anni. E la Bibbia delle 42 righe, a 2 colonne, è considerato appunto il primo libro a stampa dell'Occidente. Consiste in 2 volumi per complessive 1282 pagine. A mano veniva eseguita la rubricazione delle iniziali e dei titoli, non solo in colore rosso, ma anche in blu. Poi c'erano miniature e fregi che erano applicate su copie destinate ad acquirenti di alto rango. Ma interessante, perché in questo modo ogni copia diventava un pezzo unico. Attualmente si conosce l'esistenza ancora di 43 esemplari su carta e 5 su pergamena. Poi dovrebbe essercene ancora uno incompiuto che venne venduto a fogli, eccetera. Un'altra cosa interessante, tanto per dar dei numeri, nel 1987 in un'asta svoltasi a New York è stata aggiudicata una coppia alla considerevole cifra di $5.390.000. Nel 1987 si calcola che la valutazione attuale potrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro. Allora, questi erano alcuni dati che il dottor Farina non ha dato, e quindi, visto che mi piacciono i numeri, abbiamo cercato di darne approvi. Benissimo. Allora, vorrei tornare un attimo a lunedì, quando abbiamo portato qui la riproduzione di questo torchio, perché la dottoressa Deborah Ferro mi dice: sono emozionata nel vedere questo torchio che così si abbina in quella sala, tra l'altro con tutti quei bellissimi incunaboli, bellissimi. Quindi questa emozione, le ho chiesto quando sono arrivato, ha detto che continua. Anzi, dice che non ha dormito per 2 notti perché ha sognato che venivano a rubare il torchio. E quindi credo che questo non è avvenuto, quindi dottoressa può dormire da... No, non ancora, perché il torchio rimane qui ancora qualche giorno. Allora, andiamo sulla riproduzione, alcuni dati di questo torchio di Gutenberg che vedrete e che avete già visto là in fondo. Intorno agli anni 85-86, i responsabili di 3 comunità evangeliche liguri dettero vita ad una mostra storica della Bibbia, la stessa, va bene, ampliata, che abbiamo già avuto qui nel 2008 e che, se Dio vuole, avremo prossimamente dal 12 novembre al 10 dicembre prossimi. Un ingegnere residente a Genova maturò l'idea di poter esporre a questa mostra una riproduzione fedele di quello strumento che stampò come primo libro proprio la Bibbia, il torchio di Gutenberg. Beh, l'idea era bella, ma come fare? Intorno agli anni 88-89 decise di recarsi a Magonza presso il Museo Gutenberg. Illustrò il suo progetto, cioè quello di poter avere questa coppia da poter esporre, e questo progetto ebbe successo e i responsabili di questo museo concedettero a questo ingegnere copia del disegno originale con la relativa autorizzazione per riprodurre ed esporre il torchio. E questi documenti, copie di questi documenti, possono essere visionati nella stanza dove è posizionato il torchio. Bene, c'era il disegno, tutto a posto, ma adesso bisognava costruirlo. Allora, nell'anno 90, questa costruzione, questa riproduzione del torchio, venne eseguita dal signor Angelo Aresca. Finalmente arriviamo a un Aresca, che ne è anche il proprietario. Allora, a differenza dell'ingegnere di Genova, che ho citato prima, Angelo Aresca è in vita e sono veramente spiacente di non poterlo vedere qui, ma per due motivi: uno a causa dell'avanzata età, ma l'altro soprattutto per acciacchi fisici che normalmente arrivano a 86 anni, l'età di Angelo Aresca. Quello che voglio sottolineare, perché il mio intervento è già pressoché finito, è che il movente che si nasconde dietro a quella riproduzione è il forte desiderio che questo ingegnere, insieme ad altre persone, ha avuto per esporre alla mostra della Bibbia lo strumento che ha permesso di stampare il libro dei libri, la Bibbia, la parola di Dio. E quindi in questo contesto proprio anche della celebrazione della Riforma, dove la Bibbia è stata messa al centro, io come cristiano evangelico sono orgoglioso di poter essere un lontano discepolo di Lutero nel mettere la Bibbia al centro, la parola di Dio. Grazie. Ovviamente è già stato detto, adesso potrete poi fare delle prove perché il torchio è funzionante, grazie al signor Sergio Sconfienza. Penso che ce ne sia qualcun'altra, ma non saprei dove. Sicuramente nel nostro ambito è l'unica, ma penso che in giro per l'Europa qualcun altro abbia avuto questa idea, però non ne sono a conoscenza, non posso essere sicuro. Non so se l'amico Sergio Sconfienza può rispondere a questa domanda, eventualmente gliela potete fare dopo, se lo sa. Qualcun altro domande? Nessuno? Siamo stati chiarissimi. Nessuna domanda. Allora vi ringrazio a nome anche degli oratori per essere intervenuti questa sera, grazie di averci ascoltati, speriamo di aver lasciato non soltanto delle nozioni, delle informazioni, ma anche nel vostro cuore un motivo in più per avviare una riflessione. Ora vi lasciamo a questa bellissima riproduzione del torchio, immagino potrete anche stampare qualche pagina, forse il dottor Berzano ha ancora qualcosina, saluto, no, se la posso. Bene, grazie ancora e buona pratica sul torchio.